Palla Spicchi con Carlo Genta. Ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Cos Peterson, buongiorno. Buongiorno amici sportivi, buongiorno a tutti. Ciao, buon pomeriggio, grazie a voi. Ciao coach. Ciao Paola. Paola, grande, piacere. Piacere mio, maestro. Chiamiamo anche gli ascoltatori a intervenire, 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Dicevo, venerdì di quaresima stretta, coach. Fuori dall'Europa, lì con il naso schiacciato contro la vetrina guarderemo gli altri vincere le coppe. Ci sono, ma innanzitutto si hanno fatto un paio di cose davvero eccezionali. Gare 3 sono state sorclassate da Panathinaikos, ma la vittoria ad Atene è una cosa storica. Come hanno fatto a vincere lì davanti a 20.000 persone in una grande arena, grande squadra, grande coach, grande budget, grande città, tutto quello che hanno fatto rimane storico. E ieri ovviamente avevano la possibilità di vincere, hanno lottato proprio con il coltello fra i denti. Quindi e certamente conoscendo Ferdinando Minucci, il big boss, e Simone Pianigiani, penso che Paolo sia d'accordo, loro stanno già studiando cosa devono fare per rifare quel salto che hanno fatto l'anno scorso per arrivare al Final Four, e io penso che lo troveranno anche. Loro non dormono, questo loro segreto. Dato che il Big Boss dovrebbe essere il nostro ospite telefonico più tardi, provvederemo a chiedergli. Intanto chiediamo a Paolelli se sei d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. La programmazione è il forte del Monte Paschi. Proprio sulla programmazione ha costruito il fatto di essere diventata la squadra più vincente e attualmente più imbattibile in Italia. Manca quel piccolo salto in Europa, in effetti, ma senz'altro stanno già lavorando. Sono d'accordo col coach. Cos'è mancato ieri, Paola? Cos'è mancato in questa serie? Perché è vero, il coach dice impresa storica ad Atene, però due sconfitte in casa. Sì, è mancata forse anche l'abitudine a giocare questo genere di partite, perché stiamo parlando del Panathinaikos, cioè di una squadra che è abituata a giocare partite di questo tipo a livello non soltanto interno, ma soprattutto anche a livello internazionale. E quindi la gestione della pressione, delle emozioni e di tutto quello che c'è intorno al fatto tecnico. E credo che sia mancato più che altro questo a Siena. Abitudine, coach. Ah sì, Paolo ha centrato in pieno. Perché è come l'NBA, se tu prendi, non so, i San Antonio Spurs, che hanno vinto questi 4 titoli in questi ultimi 10 anni, e fai la somma delle partite vinte dai loro giocatori, cioè siamo a 200, 300, 400, una roba ridicola, oppure prendi Tim Duncan, hai vinto lui tipo 100 in carriera, tanto per, sto inventando le cifre, ok? Tu prendi, mi ricordo un anno che Toronto andava per fare i playoff contro New Jersey 2 anni fa, il primo anno di Bargnani, e Jason Kidd aveva più partite playoff nella sua carriera giocate che tutta la squadra di Toronto insieme, tutti più vinti, cioè, quindi anche questa esperienza. Ma aggiungo un'altra cosa, secondo me, non so se Paolo è d'accordo, perché forse è meglio chiedere a Paolo perché li vede più da vicino di me, Siena è il prodotto del complesso, nel senso che quello che noi vediamo in Siena che vince in Italia è grazie al gioco corale, la squadra che c'è, ma quando tu vai contro una grande squadra come Panathinaikos, con un grande coach come Obradovic, che fa quella che definisco come Messina, la vivisezione, cioè loro separano, mettiamo a parte qui Stonerock, mettiamo a parte qui, cioè, è come in un laboratorio, capito? Vediamo cosa fa Stonerock da solo, vediamo cosa fa Kaukainis da solo, vediamo, cioè, e magari espongono, e non saprei neanche quale dire, i punti deboli dei singoli giocatori, che li fanno giocare singolarmente e distruggono un po' il gioco coralmente. Per questo Siena fa l'altro ieri in gara 3 solo 52. Paolo annuisce, ma annuiamo tutti, insomma. Obradovic gli ha levato Sato, gliel'ha tagliato via dopo la prima partita, ha fatto i numeri, l'ha tolto. Poi gli ha tolto Sean Storrock offensivamente, non stava in campo offensivamente, è un giocatore determinante persino difensivamente. Serviva Lavrinovic al 100%, non c'era Lavrinovic al 100% e quindi la chimica è saltata, no Paola? D'accordissimo, poi come giustamente dice Dan, il sistema è quello che funziona per il Monte Paschi, non il singolo. Il Panathinaikos ha talento da vendere, Siena ha la forza del sistema, basta toglierne anche soltanto uno, come avete detto giustamente voi, Sean Storrock, che era costantemente battezzato in attacco, no? Gli lasciavano 3 metri, sicuramente Obradovic avrebbe preferito prendere 15 punti da Storrock, sì, ma togliere i Satoi, i Domerkan, i McIntyre eventualmente dalla partita, e questa è stata una grande magata di Obradovic. Io volevo chiedervi questo, siete d'accordo sul fatto che forse quest'anno, abbiamo parlato di sistema Siena, Siena è stata famosa e anche la migliore nel nostro paese per fare degli acquisti che sono sempre stati funzionali al sistema, si può dire che forse quest'anno qualcosina non è stata messa al posto giusto? Bah, gli acquisti sono stati Domercan e Finlay quest'anno. Esatto. Beh, Domercan in Coppa Italia è stato assolutamente fondamentale perché ha fatto delle partite strepitose. Adesso è in calo, oggettivamente in calo in questa serie, praticamente non è mai entrato. Finlay ha un compito difficilissimo perché comunque entra per il signor McIntyre. Simone Pianigiani fin dall'inizio dell'anno ha detto che gli avrebbe lasciato un po', diciamo, di spazio come battitore libero, cioè di poter fare le cose che faceva lo scorso anno Rieti, ma un conto è farle a Rieti, un conto è farle certo. A Siena. Mm-hmm. Cosa che ne pensi? Guarda, assolutamente. Ma guarda, gli acquisti, ogni tanto bisogna, come dicono in America a Las Vegas, rotolare i dadi e vedere che numero viene fuori, ok? Prendi un giocatore, ci sono dei rischi che uno corre. Io ho fatto qui a Milano acquisti, sono stato criticato per aver preso Premier, aver preso Bargni, aver preso Barriviera, però sono giocatori che nel nostro complesso, nel nostro sistema, sono stati utili. Cioè, ovviamente, come dice Paolo, è il sistema che funziona, la società e poi la longevità, i giocatori che sono lì 3 anni, 4 anni, non so quanti anni sono, tanto per dire, Pianigiani terzo anno come head coach, ma già prima di questo 15 anni nella società, Minucci lì da 20 anni, cioè, non, sono cose che non si può comprare al supermercato. Io vedo altre società, c'è un cambio ogni 2 giorni. La lezione, comunque ieri sera la lezione da Obradovic, perché quello che ha fatto in questa serie l'allenatore del Pana è stato tanta roba, ecco. Cioè, anche perché ha dimostrato come Sato e come Kaukenas, che in Italia sono immarcabili, fanno quello che vogliono, grosso modo, in Europa ha scoperto un po' le lacune di questi 2 giocatori, fortissimi finché si vuole, ma probabilmente non decisivi a quel livello. Quando parliamo di Obradovic, non so la classifica di Paolo, cioè, ma per me i 2 migliori allenatori in Europa, Messina e Obradovic. Cioè, Messina forse è più adatta per fare l'NBA perché parla l'inglese, ma come coach Obradovic, se gli dai in mano Obradovic, ma vuoi scherzare? Cioè, Dan, chi prende per allenare una squadra NBA, Larry Brown o Zelomir Obradovic, ma non ci penso neanche un milionesimo di secondo. E lui presta molta attenzione a queste cose. E poi se prendiamo la sua carriera, quante partite di Eurolega che ha fatto lui, quante partite di Final Four, quante partite di Playoff, e ne sa. E di più, noi parliamo di continuità a Siena, e Obradovic, adesso è la 9ª stagione che lui lì a Panathinaikos, e tanti giocatori lì diversi anni, anche loro sul piano della continuità non scherzano niente. Messi Obradovic e Paola che rischiano di trovarsi ancora uno affacciato sull'altro, sì. In finale, il derby greco, e poi vediamo l'avversario del Zesca, a Barcellona ieri ha stravinto a Vittoria, secondo me, faccio dire ovviamente per il Baso, per Basile, ha buone chance di andare alle Final Four, e poi vediamo cosa succede. Beh, in effetti Obradovic-Messina è il più pronosticabile, devo dire, degli scontri finali, anche se il derby greco, poi sai, partita secca, non puoi mai dire, però Panathinaikos è più concreto rispetto all'Olympiakos. Più squadra. Sì, esatto. Io non so di Paolo, ma io ero leggermente sorpreso, sorpreso dalla grande vittoria di Barcellona. Cioè, io avevo innanzitutto pronosticato Tau, non so se Paolo, se tu hai, forse è stato Jerry a fare la partita con Tau, ha letteralmente asfaltato Milano, sì. Qui, cioè, mi ha lasciato l'impressione, poi magari Milano in serata no, però Tau super, super, super, io so, Tau può vincere tutto. Pensare a loro a perdere in casa di 20, ma ieri avevo pronosticato anch'io Tau, onestamente, anche perché giocava in casa, e a Vittoria è difficilissimo vincere. Però sono, vabbè, a parte derby spagnolo, 2 squadre strane in questa serie, perché è andato tutto al contrario di come sembrava pronosticabile fin dall'inizio, per cui diciamo che continuiamo ad essere smentiti, coach. Tra l'altro mi sembra che si fossero incontrate, se non sbaglio, 8 o 9 volte, e il Barcellona è la seconda che vince, non aveva mai vinto contro il Tau, sì. Negli scontri tra campionato e Coppa, ed è riuscito a vincere queste 2. Basile, ma sta facendo una stagione mica da ridere quest'anno. Oh, è importante Basile, perché non stagione. Solamente fa i canestri determinanti, ma lo vedo ringiovanito, non so Paolo, tu hai fatto le sue partite in persona quest'anno, Paolo? Io non ho fatto il Barcellona personalmente, però l'ho sempre visto, okay. E devo dirti che hai ragione, in effetti sembra che stia vivendo una seconda gioventù. Più che altro, sai cosa? Si vede la maturità del giocatore, però si vede che c'è ancora tanta voglia e tanta fame. Ma anche lì, Basile, ma cosa non hanno fatto Basile in carriera? Ha fatto secondo posto alle Olimpiadi, uno. Ha vinto uno scudetto a Bologna nel 2000 con la Fortuna, e due. Ha vinto uno scudetto da playmaker quando non era playmaker lui. Ancora playmaker quando Vujinic è andato fuori nel 0-5. Cioè, questo ragazzo qua poi ha avuto il coraggio. Cioè, quanti italiani vanno all'estero al vertice della carriera a giocare al vertice ancora? Non è facile questo qui. Quindi è una persona che sempre parla molto sottovoce, molto umile, eccetera, in aspetto, però dentro di lui c'è questo grande fuoco per farsi vedere. Cosa, prima di salutarti, una parola anche sull'altra delusa, Benetton Treviso, che ieri ha perso il Lietuvo Stritas. Immagina come sono contenti a Torino, semifinale Lietuvos contro i serbi. Ma guarda, mi stai chiedendo una cosa. L'anno scorso eravamo noi lì a Torino per facevo io insieme a Maurizio Trezzi il commento per Eurosport, che fa parte di noi lì, faceva parte di noi a Sport Italia, e non c'era una squadra italiana, nonostante questo il media di pubblico per ogni sessione lì, ogni due partite, era 5.000-6.000 persone. Quindi avessimo una squadra italiana. Adesso c'era Benetton Treviso, avrei voluto vedere loro andare avanti, però non è successo così. Ma questo rimane come lezione di quello che si deve fare, come Siena deve fare certe cose per ritornare al vertice d'Europa, dove era un anno scorso e c'era Paolo lì, mi ricordo, e loro potevano l'anno scorso Siena vincere tutto. Messina mi ha detto, ho detto 3 o 4 volte qui in onda, avevo paura di Siena, era meglio per noi Maccabi perché le marcature, quelle cose lì, e infatti più 18 per Siena gettano via la partita con Maccabi, poi Maccabi ha fatto una scena da Far West, un saloon da John Wayne lì per vincere la partita, ma questa è l'Eurolega, però Siena poteva vincere l'anno scorso. Sì, resta la sensazione che l'occasione con la O maiuscola fosse proprio quella dell'anno passato, Paola. Sì, assolutamente sì, ha detto bene il coach, la partita con il Maccabi sembrava vinta, poi effettivamente diciamo che gli israeliani ci hanno messo del loro nel riuscire poi a raddrizzare le cose, un paio di fischi un po' così, diciamo, non proprio condivisibili, ed è andato in finale il Maccabi. Quella è stata la grandissima occasione del Monte Paschi, che non significa che non debba essercene un'altra. Non era il 3-0 del Milan con il Liverpool, però dopo quel primo tempo facciamo 2-0, diciamo che sì, il parallelo tiene. Facciamo 2-0. Coach, cosa, per chiudere, cosa serve a Siena secondo te? Ce lo domandano anche diversi ascoltatori via SMS. Cosa serve a Siena? Deve rifare la squadra a Siena? No, non credo. Non devono avere una fiducia. Ma guarda, sento queste cose, cioè Paola ricorda benissimo che suo marito, il mio grande giocatore Franco Boselli, cioè 83, secondo in Italia, secondo in Europa, 84, idem, secondo in Italia, secondo in Europa. Cosa facciamo? Disfiamo la squadra? No, abbiamo tenuto il nucleo, abbiamo fatto piccoli cambi importanti e abbiamo finito 3 scudetti in fila. Quindi loro stanno vincendo tutto, cosa deve fare in Italia? Magari una valutazione, 2 valutazioni, magari come abbiamo detto, ok, do mercante, Feli non va bene, via do mercante, non sto suggerendo questo, via chiunque, ok? E prendiamo un altro giocatore o 2 altri giocatori, e certamente stanno valutando. L'unica cosa che loro devono fare, quello che facevo io valutavo i miei giocatori non per le partite che dovevo vincere lo stesso, ma le partite più dure. Io vorrei vedere, non diciamo le statistiche, ma il mio occhio, cosa hanno fatto nelle partite più tremende. Anche le vittorie, tipo quella a Atene, anche queste sconfitte qua, anche durante altri momenti, le 3 partite di Coppa Italia, chi ha giocato, chi non ha giocato, diverse, cioè, è sempre un roulette russo, ok? Lì sono i punti su cui Minucci dovrà e Pianigiani dovranno intervenire. Minucci non dorme, ok? No, infatti poi lo chiamiamo, fa mica la pennichella. Poi alle 2:30 lo chiamiamo Minucci, sentiamo che idea. Grazie, coach! Ciao ragazzi, Paola, ciao, un abbraccio! Ciao, okay? Coach, un bacio! Torniamo sempre con noi Paolo Ellisse, per rendere meno amaro questo venerdì di Quaresima. Dicevamo prima con Coach Peterson, fuori dall'Europa, fuori Siena, ma fuori anche Treviso, e di Treviso tra poco parleremo. Giancarlo, provincia di Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno alla sua ospite. Buongiorno. Allora, premesso che io non sono né di Siena né neanche di Treviso, vorrei però, come ha detto ai lavori del basket, per completezza di informazione, far rilevare che ieri ci sono state delle valutazioni arbitrarie alquanto strane, sia nell'una che nell'altra partita. Quindi ci sarebbe da valutare un attimino anche il modo in cui Siena non ha potuto giocare, perché francamente certe manate, certi sfondamenti non fischiati e quello di Battisti su Donnerkamp è l'esemplificazione perfetta, volutamente a mio avviso non fischiati perché l'arbitro era un metro e mezzo, decisioni ribaltate. Ecco, ripeto, se vogliamo dare una completezza di informazione, nel basket ci sta anche quando non si può giocare. Pianeggiani non ha potuto fare rilevazioni di nessun tipo, mentre Obradovic ha fatto per tutta la partita ciò che voleva con gli arbitri. Addirittura ce n'era uno che era in imbarazzo quando Ortiz prendeva delle decisioni, quindi questo mi sembra abbastanza emblematico. Direi che in questo momento il peso politico europeo per quanto riguarda l'Italia è molto scarso. Vorrei sentire la vostra opinione. Le faccio sentire subito quella di Paolo Ellissa. Sul fatto che il peso politico del basket italiano in Europa non sia al top, probabilmente ha ragione. Credo che l'arbitraggio più scandaloso sia stato però quello di gara 2, paradossalmente esatto, l'unica partita che Siena ha vinto, perché lì c'è stata veramente la sensazione di un arbitraggio che non ha mai gestito nel modo più assoluto la partita. Su gara 3 e gara 4 sono d'accordo che ci siano stati diversi episodi che possono essere costati, vabbè, gara 3 però diciamo che non c'è stata partita. Parliamo di gara 4, ci sono stati senz'altro diversi episodi che sono costati qualcosa a Siena, però faccio fatica a pensare che sia stato volontario da parte degli arbitri in questo senso. Sottile vento contrario, facciamo così ieri sera? Sì, direi di sì. Poi credo anche che comunque, non so, io non ho mai arbitrato, quindi è un mio parere personalissimo, credo che comunque un arbitro in modo cosciente o meno tenda a seguire l'inerzia che una partita dà, un po' come facciamo anche noi quando siamo in telecronaca, no? Magari vivi la sensazione che ci sia una squadra più forte, tendi magari ad andare con quella, anche se non ne sei tifoso e non ti interessa se poi vincerà o perderà. Credo che anche gli arbitri in qualche modo questo lo avvertano. Sì, ieri sera, diceva giusto, secondo me il nostro ascoltatore emblematico è stato quello sfondamento di Domerkant, anche per il momento in cui non è arrivato, certo, quel fischio. Cioè, è chiaro che qualcuno può anche pensarla un po' meno, diciamo, meno pura, ecco, perché è arrivato in un momento abbastanza sospetto. Ma sai, a me, ti ripeto, sono d'accordissimo, quel non fischio è stato effettivamente un gravissimo errore. Non riesco a pensare alla malafede degli arbitri, e poi probabilmente, perché cambierei mestiere. No, e non ha, credo, neanche condizionato il risultato, perché comunque il Panathinaikos ha dimostrato, secondo me, su queste partite, che quando si affronta due squadre di così alto livello, il Panathinaikos è più forte, non c'è... Vabbè, se andiamo all'analisi oggettiva, sì. Cioè, non è un fischio alla fine che manda, no. che ha fatto girare la partita ieri. Non è un fischio, direi che è stato più il fatto che il Panathinaikos sia al top, veramente al top, e il Panathinaikos al top, come dicevamo prima, è più forte, oggettivamente più forte di Siena. E poi, ripeto, secondo me c'è molto di Obradovic in questa serie e in queste due vittorie. Beh, lavorarsi gli arbitri fa parte del mestiere, del la cosiddetta lobbying, ne parlano tanto negli Stati Uniti, no? Per cui Popovic può dire certe cose e altri no, insomma è normale che, o nelle CAA ci sono degli artisti del lavorarsi gli arbitri. Sì, non c'è dubbio. Ilias, Udine, buongiorno. Buongiorno a voi, salve. Mi dispiace di non poter dire due parole dolci a favore del Monte Paschi Siena, però non sono d'accordo con quello che ha detto prima l'ultimo ascoltatore e la Paola in studio, perché secondo me qui si tratta di una mentalità vincente che Obradovic prima di tutto ha inculcato e sa inculcare anche nei pochi secondi di pausa quando c'è un break, e questa cosa è stata fatta, credetemi, sicuramente ad altissimo livello da Obradovic dopo la sconfitta -2 di Atene, perché Obradovic non ha potuto assolutamente perdonare la sconfitta di Panathinaikos a gara -2 ad Atene. Quindi sono arrivati per vincere tutte e due le gare, l'hanno fatto. In più potrei dire un'altra cosa, sicuramente un monumento enorme a McIntyre e Kaukenas, ma non sono bastati, perché Panathinaikos ha 6 giocatori in doppia cifra, 11 a 18 gli assist, 19 a 20 tiri liberi e 37 su 26 rimbalzi, quindi soltanto i rimbalzi ha vinto. Sì, sì, sì, no, non c'è dubbio. Non so se siete d'accordo. La grandezza di Obradovic, insomma, non la scopriamo certo oggi, l'abbiamo scoperta qualche anno fa, insomma, quanto al resto mi pare di sì, insomma, mi sembra che abbia ragione l'ascoltatore. Ma io sono d'accordissimo sul fatto che il Panathinaikos dai timeout è sempre uscito molto bene, ma sono convinta altresì che altrettanto abbia fatto Siena. Ieri forse la cosa più bella che si è vista all'interno della partita è stata proprio quella, l'uscita dai timeout delle due squadre, perché ricordo nel secondo tempo un Montepaschi in uscita dal timeout che piazza un 6-0 pronti via, per cui entrambi gli allenatori in questo senso sono stati molto bravi. Pianigiani, che per una gara 4 così determinante si inventa la difesa 1-3-1, sì, che sì, non si era mai vista in casa senese e che tra l'altro funziona, perché Stonrux è preso uno sfondamento. Insomma, diciamo che tutti e due gli allenatori hanno fatto delle cose tecnicamente pregevoli, nei time out hanno fatto uscire bene le squadre. Poi su Obradovic non c'è proprio niente da dire, per carità, mi tolgo solo il cappello, ci mancherebbe. Mind game tra i due allenatori che ha premiato Obradovic perché ha più talento e anche più fisico, perché Paola ieri si è visto anche il confronto sotto canestro, e forse lì Siena dovrà lavorare, perché Eze non fisicamente fa fatica a reggere il confronto con Battista, con Pekovic. Sono lunghi veri questi del Panathinaikos, e forse il Pana è l'unica squadra ad avere lunghi veri, aver riscoperto il lungo vero. Ma qui torniamo a un antico discorso che già da qualche anno che si fa sul fatto che in Italia adesso si tenda ad avere di più il centro leggero, molto veloce, saltatore, atletico e magari con il tiro da fuori. Però poi si dice sì, ma a livello europeo questo non serve perché c'è il centrone classico di posizione. Ieri Pekovic mancava poco, piantasse le tende in area in certi momenti della partita. E questo è un discorso concettuale che si fa da parecchio tempo. Sicuramente a livello europeo Benjamin Eze, nonostante tutti i suoi miglioramenti, non può reggere il confronto con i centroni alla Battista o alla Pekovic, anche soltanto per una questione di peso. Lavrinovic comunque è uno che tende ad allontanarsi dal ferro, e la mancanza di un centrone si è sentita. Poi vedi lì, tra l'altro, la grandezza di Obradovic aver tolto Storuk offensivamente da questa serie. Storuk è un giocatore che nell'altra metà del campo è imprescindibile per Siena. Ieri è stato a lungo seduto, avrebbe avuto bisogno magari di giocare con Storuk vicino a canestro, un quintetto molto atipico, Storuk vicino a canestro, Lavrinovic al 100% a tirare da fuori. Allora voglio vedere se battezzano Lavrinovic. È probabile, oltretutto sai, c'è anche un altro discorso, proprio perché nelle prime due partite i centri del Panathinaikos avevano fatto molto male, sia Battist che Pekovic, c'è stata una voglia di proteggere l'area da parte della difesa senese, collassavano molto area e quindi poi subivano chiaramente il tiro da tre, e questi qua non sbagliavano mai, cioè la coperta diventava corta. Mentre invece quando Siena è stata sfidata al tiro da tre ha tirato male in purtroppo, questa serie, non c'è anche da tiri fare. Ben presi, anche tiri spesso ben presi, anche contro la zona sono riusciti a trovare dei buoni tiri e si fermava sul ferro. Percentuali abbastanza simili, perché ha fatto 6 su 22 in gara 3, 7 su 23 in gara 4, quindi comunque una tendenza abbastanza diffusa nelle ultime prestazioni. Non sta tirando benissimo Siena dall'arco, e quando gli toglie a questa squadra quel tipo di fondamentale diventa più difficile. Eh sì, anche perché poi comunque rimane il fatto che la scatola chiaramente non si apre, perché ti lasciano tirare da tre, e prova a penetrare tu contro quella difesa lì, sono cavoli. Stavo dando un'occhiata ai messaggi, intanto c'è un ascoltatore che chiama proprio da Siena, adesso lo ascoltiamo subito. Se siete obiettivi, Siena ha fallito la stagione, ditelo, scrive Gianni. Non credo abbia fallito la stagione, anche perché credo vincerà a mani basse il campionato, e qui ha vinto la Coppa Italia. Ha vinto la Coppa Italia, quindi intanto difficile. Fallimenti sono altra roba. Sì, fallimenti sono altri. A Siena manca un avversario o due in Italia, questo è condivisibile, Oreste da Treviso. Ma sentiamo Alessandro. Siena, buongiorno. Sì, buonasera. Intanto faccio i complimenti a voi e a Paola per il servizio che state facendo alla pallacanestro, anche per quanto riguarda Sky. Volevo Grazie. Spostare un attimino la discussione su un argomento poco piacevole, e me ne scuso anticipatamente. Ieri sera io ero in piedi ad applaudire i giocatori della Menzana e del Panathinaikos al termine della partita, quindi ho dato modo, come tutti gli altri, ai giocatori di Atene di festeggiare in campo, cosa che a Atene purtroppo non è successa. Al momento in cui i giocatori del Panathinaikos sono usciti, hanno salutato in maniera irridente i tifosi di Siena, scatenando un mezzo putiferio dietro alla panchina del Panathinaikos. Non l'ha segnalato nessuno questo aspetto, e sinceramente quando si parla anche di accadimenti in merito a comportamenti dei tifosi, cioè, tante volte andrebbe stigmatizzato anche il comportamento di certi professionisti, che non è sinceramente molto bello, ecco, sì, la voce se n'è andata ieri sera, Alessandro. Ma non mi sembra, perché stamattina sinceramente mi ero alzato e non avevo sintomi di questo genere. L'ha lasciata al Palamensana. Quanto ai giocatori, sì, ieri sera io non dalla televisione non ho visto, no non ho visto nemmeno io, non ero a Siena. Chiaro che l'educazione è una cosa che vale per chi sta seduto in tribuna e per chi sta in mezzo al campo, e credo che qui entriamo poi nella sfera dell'essere umano e non del professionista, certo, o del non professionista. Se uno è sciocco, lo è, che sia in canottiera e calzoncino, in giacca e cravatta, e penso che comunque vada sempre stigmatizzato il maleducato. Eccoci tornati, sempre con noi Paolo Ellis, che di nuovo ringrazio. Grazie a voi. Flavio Suardi naturalmente qui con me. Paola, volevo parlare un attimo della Benetton, che sì, sei rimasta delusa dal risultato di ieri. Dicevo che... prima, magari sono delusi gli organizzatori di Torino, perché Emofarm, nonostante Flavio Suardi dica che sia uno spettacolo da vedere. No, guarda, credimi, Emofarm, lieto vos ritas in semifinale. Sicuramente, però ieri l'Emofarm Versace ha dato una lezione clamorosa alla Dinamo Mosca, credetemi, ha giocato una partita incredibile con una squadra che non ha giocatori stranieri, sono praticamente tutti prodotti del vivaio. C'è un 2-21 che si chiama Marjanovic, che tira i tiri liberi col 70%, che è una cosa secondo me incredibile, e ieri sera hanno ampiamente meritato di vincere quella partita. E poi sulle partite secche succede ancora che Davide possa battere Golia, sì, no? Sì, poi sì, magari invece nelle serie al meglio delle 5 questo non capita. Non ho visto la partita della Benetton perché chiaramente stavo seguendo il Monte Paschi. È chiaro, ci si rimane male, spiace, sono arrivati fino a qui, fuori ai quarti. Tra l'altro ho seguito un po' il play by play su internet, sono stati avanti a lungo nel primo tempo e anche ampiamente, quindi insomma si sperava che potesse andare diversamente. Gli organizzatori felici non saranno, per risponderti, dubito, perché tutto sommato, per quanto bella pallacanestro si possa vedere, tutti con Scariola adesso, sì. Su calo di pessimo Scariola. Secondo quarto ha pagato la Benetton, davvero brutto. Intanto abbiamo in linea, saluto e ringrazio, quello che Dan Peterson prima ha chiamato The Big Boss di Siena, Fernando Minucci. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, buonasera. Giorno dopo com'è? Le riflessioni del giorno dopo come sono? Ma sereno, obiettivamente abbiamo incontrato una squadra che in questo momento hanno uno stato di forma, uno stato di grazia tecnico veramente straordinario, quindi dobbiamo solo ammettere la loro superiorità. Devo dire che proviamo un dispiacere, ma l'evidente differenza, gli infortuni, lo stato di forma di alcuni elementi non ci hanno permesso di lottare alla pari, e lottare alla pari con loro significa essere al massimo, proprio perché esprimono un basket in questo momento straordinario. Sì, in questo momento sì. Prima Dan Peterson diceva staranno già lavorando Minucci e Pianigiani per la Siena del futuro. Forse un po' presto, magari bisogna far passare, bisogna far sbollire e poi fare le riflessioni tra un po'. Però la Siena del futuro dove andrà? Ma noi abbiamo nel nostro palmarese, nella mia gestione, manca solo l'Eurolega. Ripeto, questo è un po' il nostro obiettivo che ci siamo posti, è l'obiettivo massimo. Non è semplice, la qualità che esprime il basket europeo è altissima, grandi investimenti, giocatori di livello assoluto pochi, quindi grande concorrenza. Dobbiamo fare di necessità virtù, noi cerchiamo di seguire un po' la nostra idea di squadra, cioè cercare nel sommerso, cercare di valorizzare giocatori che non sono affermati a massimi livelli, perché entrare in concorrenza con i budget delle grandi squadre europee è molto difficile, e quindi cerchiamo di trovare soluzioni alternative. Per ora ci è riuscito, perché comunque Siena in 6 partecipazioni ha fatto 3 Final Four. Questo per noi è importantissimo, e anche quest'anno abbiamo battuto le grandi, le grandissime, abbiamo battuto Mosca, abbiamo battuto il Barcellona, abbiamo battuto il Panathinaikos, e quindi questo vuol dire che siamo lì, e tra essere lì e vincere c'è un abisso che deve essere colmato, ripeto, solo a livello progettuale. Si erano a primo obiettivo assoluto quello di non perdere, di far pari, quindi possiamo spendere solo un centesimo di euro in meno di quello che entra. Questo è, per cui parlare di futuro è parlare sempre nell'ottica di questo che dicevo, quindi sì. Non è così semplice andare a pescare, no? Sempre nel sommerso, per valorizzarlo e portarlo ad altissimo livello. No, questo è evidente, no Paola? Sì, infatti, ciao Ferdinando, sono Paola Ellisse. Credo che la progettualità sia proprio la forza del Monte Paschi, si diceva prima, no? Il fatto di aver costruito comunque negli anni e nella continuità la squadra. Effettivamente adesso c'è una licenza triennale garantita per il Monte Paschi, quindi è una cosa anche che permette di essere progettuali. Naturalmente bisogna capire se la voglia è quella di riprovarci immediatamente o se la voglia è quella di costruire per arrivarci entro i 3 anni. Qual è la voglia? Ma Paola ha centrato le problematiche. Noi siamo certi di poter giocare l'Eurolega per un lungo periodo, dipenderà ovviamente anche dal nostro palazzo, abbiamo avuto incontri in tal senso, quindi un elemento base del progetto è poter giocare seguendo le regole che cambieranno tra pochi anni. Questo è il primo elemento. Il secondo, quello che dicevo prima. Il terzo, provarci subito o tentare una programmazione. Dipende, il mercato ci guida, sai Paola. Noi abbiamo la fortuna e sfortuna di non poter guidare, di non potersi imporre nel mercato, come fanno altre squadre, che se vogliono un giocatore molto spesso vanno a prenderselo e decidono una squadra a tavolino e poi la assemblano. Noi dobbiamo seguire attentamente la scia di questi grandi carnivori del basket, sperando che lasciano qualcosa, si dimentichino un giocatore, siano distratti o gli avanzi qualcosa. Questa è una realtà, sembra brutto dirlo così, ma è la dietro realtà. I carnivori, bisogna fare la battaglia con squadre, bisogna dirlo, come il Panathinaikos, come l'Olympiakos, come il CSKA, che spendono molti più soldi, che hanno molti più soldi da spendere, insomma. Esatto. Per cui se il mercato ci darà la possibilità di essere subito competitivi con l'inserimento di 2 giocatori, 3 giocatori, ma 2 dovrebbe essere il numero che abbiamo in mente, ci riproveremo, altrimenti andremo a cercare, come abbiamo fatto in passato, abbiamo fatto anche un anno di ULEB, però abbiamo costruito questa squadra che ci ha portato alle Final Four l'anno scorso e a un soffio quest'anno per questo straordinario obiettivo, giocando alla pari, ripeto, con grande realtà. Vediamo cosa succederà. Volevo chiederle questo, Minucci, dal punto di vista strutturale, avete già un'idea, diciamo, dei settori dove andare a innestare questi 2 giocatori di cui lei stava parlando, oppure per adesso diciamo che c'è un discorso un po' più vago, ecco? No, noi sappiamo perfettamente dove dovremmo cercare i giocatori, ma mi sembra poco corretto nei confronti di coloro che in questo momento danno l'anima per se stessi, ovviamente che sono professionisti, ma anche per la nostra società, per i colori della Lanciana, e quindi sarebbe non carino oggi dire quali sono i settori più deboli, perché ovviamente sarebbero rappresentati da giocatori. Però le idee, questo è evidente, le abbiamo chiare, sappiamo qual è il percorso che vogliamo costruire, però ripeto, la variabile spesso è anche il mercato. Non so se riusciremo a fare quello che abbiamo in mente. Comunque, se non sarà con un giocatore di esperienza, sarà con un giocatore da formare a livello europeo, ovviamente. Come l'Inter adesso, scudetto a tutti i costi? Prego, scusa, non l'ho sentito. Come l'Inter anche per Siena, dopo la delusione europea, adesso scudetto a tutti i costi? Magari fosse l'Inter, mi basterebbe un po' di soldi, a parte le battute. Lo scudetto a tutti i costi è un po' difficile, nel senso che lo scudetto è qualcosa di complesso, di difficile da raggiungere, un obiettivo straordinario per il terzo anno consecutivo. È ovvio che rimane solo lo scudetto, non possiamo certo dire che non è il nostro, diventato il nostro primario obiettivo, è unico obiettivo, quindi ci proveremo con forza. Alla differenza tra l'Inter e noi, che l'Inter porta dietro per vincere tutta la stagione, noi invece ce la giochiamo in tempi strettissimi, nella speranza che tutto funzioni bene, che ci sia un periodo di forma ottimo e che non ci siano infortuni. Un'altra differenza è che Simone è molto più simpatico di Mourinho, Simone Pianigiani. Un'altra che mi viene in mente così. Buon lavoro, grazie. Grazie a voi, buona giornata. A presto. Grazie a The Big Boss Fernando Minucci. No, Paola. Molto più simpatico Simone di Mourinho. Beh, sì, meno esternatore sicuramente, perché Simone è uno che chiacchiera volentieri, sì, parla volentieri, però non è certo a livello di Mourinho, e poi senz'altro le sue battute sono molto più simpatiche. E comunque io credo che Minucci potesse comprare qualcosa, comprerebbe qualche avversario di livello in Italia. Ma guarda, io se conosco minimamente Minucci, io credo che lui abbia già un piano A, un piano B, un piano C, un piano D e un piano Z, perché comunque è un programmatore pazzesco, per cui sono convinta che abbia già moltissime idee nella testa, che si guarderà molto bene dal farcele sapere prima che vengano attuate, come peraltro è sempre successo. Quindi ci dobbiamo soltanto mettere lì ed aspettare. Come detto, torniamo con gli ascoltatori. Sono Francesco e Giuseppe. Francesco da Roma, buongiorno. Buon pomeriggio. Allora, riallacciandomi al discorso di Minucci, sul piano, sulla programmazione per cercare di vincere l'Eurolega, poi tu puoi programmare, puoi lavorare per 3 anni per formare una squadra, poi trovi gli arbitri di gara 2 ad Atene e tutto va e tutto salta. E pensa che l'hai anche vinta gara 2, no? Proprio per quello che la differenza tra gli arbitraggi che ci sono in Eurolega e quelli che ci sono nel campionato italiano. Sì. Credo che in Eurolega si permetta un gioco molto molto più fisico e rispetto, mentre in Italia gli arbitri fischiano anche al battere di ciglia. E devo dire che secondo me in Eurolega gli arbitri pagano, adesso vi faccio venire l'orticaria perché siete del basket, la sudditanza psicologica rispetto ai grandi club che hanno fatto la storia di questo torneo. Sì, Francesco, però sia chiara una cosa, secondo me Siena non è uscita col Panathinaikos per colpa degli arbitri, questo bisogna dirlo, Siena è uscita col pane perché il pane è più forte. In generale, io ho visto le partite qui della Lottomatica Roma e ho notato sicuramente una differenza di arbitraggio tra i nostri arbitri, sì, e tra gli arbitri tra le quello sì però io credo però Paola, credo che questo valga anche per gli altri, no? Cioè sarà una differenza tra gli arbitraggi in Spagna quelli in Eurolega, in Grecia quelli in Eurolega, sicuramente gli arbitraggi in Eurolega sono più fisici, cioè scusami, concedono di più, sì, le difese sono più fisiche, più mani addosso, però lo sappiamo tutti, lo sanno anche, certo, i giocatori, lo sanno anche gli allenatori nel momento in cui preparano una partita, addirittura ci sono allenatori che dichiaratamente fanno spendere molti falli ai loro giocatori se dispongono di una lunga panchina, perché fanno una statistica dicendo se io spendo, adesso esagero, 100 falli, non me li fischieranno mai tutti, me ne fischieranno 50 e quindi ne ho 50 regalati, cioè, anche quella volendo è una tattica. No, comunque il punto è che Siena non è uscita da questa serie per arbitraggi contrari, tant'è vero che l'arbitraggio peggiore ce l'ha avuto nella partita in cui ha fatto. Tra l'altro non penso neanche ci sia una grande, cioè nel senso, non so se il nostro ascoltatore volesse dire che Siena a livello italiano sia un po' più tutelata rispetto in Eurolega. Secondo me non è più tutelata, semplicemente gli avversari hanno un altro tipo di peso. Beh, ma poi sai, qualcuno parla di tutela, qualcuno parla di sudditanza, qualcuno parla anche di rispetto che ci si guadagna vincendo. Nessuno di noi si stupisce se a un veterano magari viene fischiato qualcosa in meno che non al ragazzino, anzi si dice il ragazzino paga il dazio di essere ragazzino, perché lo riteniamo, ancorché non giusto magari, ma comunque normale, accettabile, e penso che altrettanto accettabile possano essere determinate altre cose, cioè il rispetto che uno si guadagna stravincendo magari, dominando magari. Andiamo in Sicilia, provincia di Messina, Giuseppe, buongiorno. Ragazzi, buongiorno a tutti, per me è un piacere parlare con voi, io chiamo da Patti. Reciproco. Patti. Patti, vicino Capo Orlando, dove conosco. La fame di basket è molto molto alta. So bene. Ci mancate, ragazzi. Ma tornano, tornano. Da parte sono passati 5-6 giocatori che adesso giocano in Serie A2, Rabaglietti, Santolamazza, Toppo, Lestini. Sì. Sì. Adesso siamo ultimi in C1, figurati come siamo messi qua per la pallacanestro. Comunque, ad ogni modo, io anch'io volevo parlare un po' di arbitri e volevo sottolineare quello che avete appena fatto voi, che Siena è uscita fuori per colpa degli arbitri, perché quando tu perdi gara 3 in casa di 30 punti, e dove gara 4, se non c'è McIntyre che fa il giocatore NBA a tutti gli effetti, prende altri 20 punti di scarto, andare ancora a cercare l'appiglio arbitrale, sinceramente, mi sembra un po' troppo. Tant'è vero che anche Minucci e il coach Pianigiani ieri sera hanno ammesso candidamente che Panathinaikos se ne è chiaramente più forte. È perché è la semplice verità. Cioè, insomma, il resto possiamo raccontarci quello che vogliamo, però la verità è questa. Possiamo dare la colpa a chi volete voi, però la verità è questa. Panathinaikos in questo momento è più forte di Siena. Grazie Giuseppe, saluto e ringrazio invece Matteo Soragna. Ciao Matteo. Ciao, buongiorno a tutti. Devo chiederlo anche a te dopo a Minucci, il giorno dopo com'è? L'ho chiesto a Minucci per par condicio, lo chiedo anche a te, insomma. Delusione, grande delusione. Perché... Quanta? Tanto, perché se è vero che per noi era un buon successo essere arrivati là, poi uscire in questo modo sa di grandissima delusione. Matteo, ciao, sono Paola Ellisse. Ciao. Avevate cominciato anche a vincere fuori casa ultimamente in campionato, visto e considerato che invece sembrava essere un grosso tabù, un momento di comunque di bello spolvero in campionato. Cosa è successo ieri? Io non ho visto la partita, raccontami che cosa è successo. Ma come ho detto, noi siamo arrivati preparati nel modo giusto, perché abbiamo vinto due partite fuori casa consecutive, quindi eravamo abbastanza carichi, lo siamo tuttora. Il fatto è che abbiamo iniziato la partita molto bene, difendendo forte e prendendo un buon vantaggio subito nel primo quarto. Poi si è spenta la luce dell'intensità, abbiamo fatto veramente tantissimi errori, loro hanno preso fiducia ovviamente, poi il pallino della partita è sempre stato per loro, la realtà purtroppo è questa. Beh Matteo, prospettiva campionato, però insomma troviamo e teniamo una Benetton competitiva, perché come diceva Paola il tallone d'Achille vostro era sulla strada, era una partita in trasferta, avete messo a posto anche questo, che poi dettaglio non è, però questa situazione. Direi che la Benetton può essere, l'ho detto molte volte, il sottomarino verde nei playoff, quella che parte da sotto, vedi solo il periscopio, però può essere un problema per tutti. Come underdog, se mi passate il termine, la Benetton è la più accreditata, quella che mi piace di più. Speriamo sia così. Noi dobbiamo continuare questo percorso che siamo riusciti finalmente un po' a trovare nelle ultime due partite, per metterci anche in condizioni di arrivare in una griglia di playoff migliore possibile. Poi nei playoff può succedere di tutto, anche se comunque su serie lunghe di solito la squadra che è meglio in forma, meglio preparata, più forte ha sempre la meglio, però insomma i playoff sono sempre i playoff. Come li vedi, Paola, loro? Ma in effetti tutti quanti, per esempio, parlano della partita di domani sera fra Milano e Teramo, la corsa al quarto posto. Sì, ma ci sono anche questi e qua vedi, che vedi, sono se li dimenticano, in corsa per se il quarto li posto. Benetton, è dall'inizio della stagione che sono lì sott'acqua. Accidenti, se sono lì. No, poi oltretutto vederli giocare, ci sono dei momenti in cui davvero sono travolgenti. Oh. Per cui, perché il talento c'è, perché corrono, perché zompano, perché fanno. E quindi effettivamente potrebbero arrivare nelle prime quattro, non mi stupirei assolutamente. Per nulla, poi adesso sono riusciti a far evadere dalla gabbia anche il bullo che sta facendo... Mamma mia, davvero. Devo dirti, sono molto contenta per lui, perché è un bravissimo figliolo, tutti evidentemente quanti, ritrovato. Gliel'abbiamo detto settimana scorsa. Facciamo il tifo per lui, tutti. Facciamo il tifo per lui, ma anche per Matteo Soragna, che io voglio vedere... Beh, lo vedremo in maglia azzurra. In maglia azzurra, perché quello è il tasto dolente. Matteo, ci pensi? Ci pensi alla prossima estate, ci pensi alla maglia azzurra, ci pensi a quell'obiettivo da conquistare, alla fatica che avete fatto fin qui, ci pensi? Ma guarda, io la maglia azzurra ci penso sempre, quindi non dipende da me andare o no, dipende da Charlie se mi chiama o meno, quindi io non mi pongo il problema di un'estate di riposo, di lavoro, per me la nazionale è sempre stata... un onore, è sempre stato un impegno che va oltre altre concezioni, quindi dipende da Charlie se mi chiama o no. E poi penso al fatto che è un'estate difficile, sarà un'estate difficile, speriamo che Belli e il Mago vengano, perché insomma è il momento anche che prendano in mano la loro nazionale e facciano crescere il movimento, perché purtroppo Gallo non ci sarà. però insomma vediamo, speriamo di esserci tutti, di poter creare la squadra migliore. Grazie Matteo, buon lavoro. Grazie a voi, invito, buon, grazie, io sapevo, ciao a tutti. Ciao Matteo. Ciao Matteo. Io sapevo che lui la pensava così sulla nazionale. Ho qualche dubbio che gli altri la pensino alla stessa maniera. Non gliela mandate a dire? È uno che non le manda a dire. Beh, da capitano, esatto. Giustamente, fa sentire la sua voce. In effetti ho gli stessi tuoi timori, cioè sul fatto che Beli e il mago possano arrivare ad arricchire la nazionale. Sarebbe un peccato, perché con loro già... effettivamente la rinuncia al gallo per la storia della schiena comunque costa, però con loro sarebbe un'altra nazionale. C'è dubbio. Abbiamo un minuto per sentire Andrea da Bologna e rispondergli, pochissimo tempo. Andrea, buongiorno. Buongiorno, volevo ritornare un attimo su Mensana e fare una considerazione sul fatto che, pur essendo senz'altro la squadra di gran lunga italiana migliore, risente un po' dello scarso livello del campionato italiano, certo. Perché facendo un paragone con la mia Virtus degli anni buoni, dove avevamo 10 giocatori di livello, mi sembra che se vogliono vincere un Eurolega devono fare un roster come quello del Panathinaikos. Ci sono poche storie, hanno 4 giocatori o 5 forse da finale di Eurolega, non di più, mi sembra. Sì. Beh, questo il grosso limite. Lo so, però la risposta l'ha data prima Minucci, insomma, sì. Bisogna fare i conti con il budget che si ha e spendere un centesimo meno rispetto al tetto massimo. Le altre hanno budget differenti rispetto a quelli di Siena, figuratevi delle altre. Paola, io voglio chiederti ancora una cosa, sì. Prima di chiudere la trasmissione e salutarti. Obama ci ha preso o non ci ha preso? Secondo me ci ha preso. Veramente? Sì. Risolve, tu dici di no? Risolve la crisi economica. Hai visto? Mamma mia. Quante ne sa? Finale NCAA, però staremo a vedere, insomma, e Paolo Ellis ci racconterà tutto il basket possibile dai microfoni di Sky. Intanto grazie. Grazie a voi, ragazzi, è stato presto, un piacere. Torna presto. Volentieri. Per il campionato, per i playoff, eccetera, magari in un venerdì un po' meno quaresimale di questo. Insomma. Speriamo, speriamo. Grazie Paolo Ellis, grazie a Flavio Suardi. Ciao a tutti. Gigi Borghi in redazione, Peter Bescapè in regia. Con lo sport ci sentiamo pomeriggio dalle 5 alle 6.